America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, vorrei riassumervi gli elementi chiave emersi dopo gli scontri elettorali del fine settimana in Nevada per il campo democratico, in South Carolina per quello repubblicano. Beh, intanto Hillary Clinton ha battuto Bernie Sanders in Nevada e si è tolta un gran pensiero. Donald Trump ha vinto con un ampio margine. Jeb Bush, che sembrava il candidato inevitabile per la nomination repubblicana, si è addirittura ritirato dopo aver ottenuto soltanto un pessimo quarto posto. Marco Rubio ha confermato di essere in recupero dopo la debacle del New Hampshire e ha battuto Ted Cruz per il secondo posto in queste primarie della Carolina del Sud, uno stato dove, diciamo, un personaggio di ispirazione cristiana, un predicatore come Cruz, avrebbe dovuto avere un risultato più importante. Ecco, ciascuno di questi sviluppi ha un significato importante in questa straordinaria campagna elettorale. Il più rilevante è la conferma di quanto sia cambiato il volto del Partito Repubblicano. Jeb Bush, vi dicevo, era il favorito assoluto, la sua candidatura è stata polverizzata, abbiamo soltanto volti nuovi in campo repubblicano e volti che non necessariamente esprimono rassicurante esperienza. Ma sentiamo quello che ha detto ieri Trump in una dichiarazione alla CNN. I think it's going to be between Hillary and myself. They say that it'll be the largest voter turnout in the history of United States. Ecco, Donald Trump pensa già al dopo, si considera già il vincitore della nomination e dice: saranno le elezioni queste con la più grande affluenza della storia. Francamente, l'unico modo per stoppare la corsa di Hillary Clinton è incriminarla per lo scandalo delle email che venivano mandate attraverso un server privato della signora e non quello del Dipartimento di Stato. Altrimenti, continua Trump, è chiaro che ci sarà una corsa tra me e lei. Ma vediamo qual è la situazione dal punto di vista dei risultati, perché in campo repubblicano la storia è leggermente più complessa. Intanto Donald Trump ha raccolto il 33% dei voti contro il 22,5% di Marco Rubio, il 22,3% di Ted Cruz. Ecco, questi sono i tre candidati di testa. E pensate che Jeb Bush al quarto posto è distaccato di molto, con un 7,8%, un risultato che appunto lo ha costretto ad abbandonare la corsa. È rimasto invece in corsa John Kasich, zitto zitto, il governatore dell'Ohio, che non aveva messo, come dire, sul piatto una sfida particolare, è riuscito a prendere il 7,6%, il governatore dell'Ohio, ricordiamolo, è arrivato secondo nel New Hampshire, e, come dire, rappresenta un punto di riferimento più di establishment, è l'unico con un'esperienza esecutiva. Da sottolineare che Kasich era partito nella Carolina del Sud soltanto con un 2% di possibili preferenze nei sondaggi preliminari. È riuscito a strappare voti a Bush. Ecco, 7,6 più 7,8 più quel 7,2 di Ben Carson fa circa il 20-21-22%. Allora il mio pronostico è che oltre a Bush si ritirerà anche Ben Carson, ed è possibile che a questo punto John Kasich emerga come il quarto contendente con circa di nuovo un 20% di possibili voti. Sarà una corsa molto molto interessante. Sentiamo Hillary Clinton. You know, I am so thrilled and so grateful to all of my supporters out there. Ecco, Hillary molto sollevata, dice: beh, qui un punto fondamentale non è solo quello che noi possiamo darvi, è che cosa possiamo costruire insieme. A questo punto dobbiamo guardare in avanti, ha detto Hillary, che ha vinto con il 52,7% dei voti contro il 47,2% per Bernie Sanders, dunque una vittoria abbastanza chiara, però Sanders non sparisce, non è una vittoria del 70% contro il 30%, e Sanders lo ritroveremo nel super martedì, il 1° di marzo, ci saranno elezioni, primarie, caucus in ben 15 stati e sarà alla fine di questo super martedì che il quadro sarà ancora più chiaro, devo dire, in tutti e due i partiti.